vita sarebbe molto diversa. Sfrutta anche l'ultima opportunità per poter cambiare questo schifo di realtà. E se potessi cambiare le cose alla svelta, so che questa vita sarebbe molto diversa. Sfrutta anche l'ultima opportunità per poter cambiare questo schifo di realtà. Se potessi ritornerei indietro in questo cammino, sarei un soldato semplice, complice del destino. Fare scelte diverse da quelle che tutt'oggi vivo. Saprei dare un senso a ciò che non capisco e mi privo di risposte che il più delle volte non conosci, anche se fosse te ne infischi e non riconosci. In fondo forse con gli sbagli è vero, butti i tuoi sforzi, solo tu la salita e un paio di occhi rossi. E se potessi vorrei il bene per questo sporco mondo, dove ormai violenza e droga di ogni giorno sono lo sfondo. Vite sprecate raggiungono in fretta il fondo, anime assatanate riempiono il portafoglio, menti criminali stipendiati da fondi statali. Stragi di 20 anni fa coperti con silenzi ancestrali. Davanti alla legge dovremmo essere tutti uguali, ma se Silvio è innocente in partenza è già una lotta impari. E se potessi cercherei di cambiare pure me stesso, ma riuscirci una lotta mi farei da solo fesso. Rimango perplesso perché so che non c'è verso, è una sicurezza, mica il mio sesto senso. Se sto in para non ci penso, se cambio non cambi meglio. Se sto meglio è perché ormai la notte non resto più sveglio. Da qui in avanti dalla mia vita voglio solo il meglio. Culo sulla sedia è un netto d'impegno. E se potessi cambiare le cose alla